È vero che solo chi ama sa creare bellezza, ma è anche vero che chi ama ha visto di amore umano sa che cos'è l'esperienza del distacco, perché a tutti i livelli, insomma, sia dalla partenza di un figlio, sia dalla perdita, no? Di una persona cara. Quindi è anche vero che se chi ama vive il distacco e lo impara a vivere il distacco, comunque percepisce il distacco, si può trovare anche di bello nel dolore? Allora, ti racconto due cose di ieri. La prima riguarda il Santo Padre. Sapete tutti che il Santo Padre oggi è in Africa, sapete che è nel Benin. E sapete che è stato chiesto dalle persone, dalle autorità del Benin, sia dalle autorità civili che da vescovo, dalle autorità, diciamo, ecclesiastiche che ci sono lì, di dare un premio speciale ad una persona. Non ricordo il nome di questa persona, ma ricordo invece la sua storia. E il premio che viene dato a questa persona è perché in un numero abbastanza limitato di anni ha costruito 800 pozzi d'acqua nel Benin, creando accanto a ogni pozzo d'acqua delle condizioni e delle risorse, diciamo, messe a disposizione delle persone. E ha poi costruito asili, insomma, veramente, ed è un imprenditore dell'area del nord-est italiano. Qual è? Bravissimo. La come letta questa storia? Allora, questo, quindi il Papa è partito ieri, probabilmente questo premio questo signore lo riceverà o oggi o domani, quindi è una storia, voglio dire, non è una storia dell'anno della catapomba, è una storia di oggi. Quest'uomo, qual è la storia di quest'uomo? È la storia di un imprenditore, diciamo tutto sommato di successo, di un buon livello economico, che a un certo punto ha un incidente grave di macchina e in questo incidente rimane totalmente paralizzato, cioè prima va in coma, dopodiché esce dal coma e rimane paralizzato dalla cintura in giù. Comincia quello che noi possiamo chiamare il difficilissimo, faticosissimo itinerario della fisioterapia, con risultati lentissimi e tutt'altro che, diciamo, pieni di speranza. Come tutte le persone che subiscono incidenti di questo genere, passa per tutta la gamma degli stati d'animo, si arrabbia, si infuria, perché proprio io, ma che male avevo fatto, e, insomma, la mia vita è spezzata, la mia vita non ha più senso. Cos'ha una fortuna? Qualcuno che lo ama, sua moglie. A un certo punto questa donna che lo sostiene in questa fatica, diciamo, della rieducazione, in questa fatica comunque anche della rinuncia a tutti i privilegi di una persona, diciamo, che aveva vantaggi, anche perché è una persona sportiva, una persona con, non solo con mezzi economici, ma i mezzi economici significavano un lavoro brillante, significavano la capacità di mettere in gioco i suoi talenti, insomma, capite? A un certo punto però quei signori decidono per una serie di ragioni di andare a passare un periodo di tempo in un paese al confine col Benin, dove c'era una fattoria di queste, potremmo dire quasi una specie di fattoria benessere, no? E lui va lì e qualcuno del suo paese dice: già che vai giù, potresti portare, non ti so dire esattamente che cosa, a una suora che era nel Benin da tanto tempo e che si stava, come fanno molte volte le altre persone, occupando di una missione, e gli danno qualcosa da portare. Finisce la sua, chiamiamolo, il suo periodo di vacanza, e lui, per compiere questo mandato che aveva ricevuto, decide di andare, come si era impegnato a fare, a trovare questa suora e a portargli questa cosa. Dice che mentre sta parlando con questa suora, che probabilmente deve essere una donna, come sempre succede in questi casi, di grande qualità, di grande generosità, di grande forza d'animo, vede che lui racconta che muoiono davanti a lui tre bambini per ragioni per cui in Italia non sarebbero morti, perché gli mancavano delle medicine, che però peraltro succede spesso, pensate alla malaria, in Italia di fatto in questo momento nessuno muore di malaria, un'altra causa grave che c'è di patologie che in Italia comunque riusciamo a controllare, nei paesi occidentali, il diabete, insomma patologie di questo genere che lì sono veramente. Lui torna sconvolto, perché dice che tornando lui ha percepito esattamente, come dire, una sorta di vocazione, cioè ha capito che il Signore lo aveva trascinato là perché lui stesso potesse fare qualcosa per quelle persone, che il lamento che lui aveva su di sé, quell'esperienza di dolore, quell'esperienza di distacco, devono servire a fargli capire quanta gente in realtà stava in condizioni ben peggiori delle sue. La storia è bellissima, lui ovviamente adesso già sapete come finisce, lui ritorna, ovviamente comincia a raccogliere soldi, comincia, come sempre succede in questi casi, comincia da se stesso, dalla sua azienda, dopodiché se stesso e la sua azienda risultano insufficienti, coinvolge gli amici, coinvolge una rete più vasta e fa questa straordinaria azione, nata dall'esperienza del dolore, dall'esperienza della sofferenza. Questo signore non lo conosco, ho letto la sua storia ieri, leggendo un po' quello che sarebbe stato il viaggio del Papa. Viceversa, ieri mattina io ero a un convegno intitolato un po' Le vite spezzate, di una, ieri era la giornata dei comi, era la giornata dei traumi cranici esattamente, quindi pazienti che erano in stato vegetativo come conseguenza di un trauma cranico. Trauma cranico che può essere anche lì conseguenza di un incidente, però potrebbe anche essere conseguenza di un ictus, cioè, però erano, come dire, adulti diventati, non erano, come dire, cerebrolesi dalla nascita, sono, questa era la giornata di ieri, per una serie di ragioni che forse qualcuno di voi facilmente immagina. Io ho seguito queste persone anche da un punto di vista, diciamo, di iniziative parlamentari eccetera, quindi vado a trovarle, queste persone che sono quasi tutte padre o madre o mariti o mogli di qualcuno che ha sofferto un trauma cranico e che non sta nelle condizioni di questo nostro amico del Nord Italia, hanno creato delle reti di solidarietà dall'esperienza del dolore, dall'esperienza del disagio, straordinarie. Adesso io non conosco qui a Palermo che cosa c'è, ma vi posso dire, a Roma c'è Casa Iri, da Bologna la Casa di Luca, ma praticamente in quasi ogni città hanno generato delle iniziative che lo Stato, l'unica cosa che può fare è rispettarle, se può facilitargli la vita, ma non le avrebbe mai fatte. Lì la generosità e l'amore ha creato delle strutture che sono belle da vedere, oltre che, come dire, buone, nella qualità dell'impegno, dei risultati, delle cose. Dove voglio arrivare? Che una persona buona, una persona bella dentro, quando impatta col dolore, va fisiologicamente incontro a una parentesi che può anche essere di disperazione. È normale, appartiene alla normalità il ribellarsi e forse anche il disperarsi e perfino il prendersela con Dio. Ma poi, in questo guazzabuglio di emozioni, piano piano emerge questa carica di verità, questa carica di bontà, che genera bellezza e la genera in iniziative di servizio. Tante volte ognuno di noi può raccontare la sua storia e anche delle cose migliori che ha fatto a partire dall'esperienza del dolore e della sofferenza, l'esperienza dell'errore. Una volta nella liturgia della Santa Messa, quando ci si riferiva, qualcuno di voi un po' più anziano se lo ricorderà, quando ci si riferiva al peccato originale, la liturgia della Santa Messa diceva Felix culpa, perché dice dove abbondò la colpa sovrabbondò la grazia. Allora qualcosa di tutto questo resta nell'umanità delle nostre esperienze. Quanto più forte a volte è l'esperienza del dolore, con tanta maggiore intensità si crea questo bisogno di andare incontro agli altri, questo bisogno di, come dire, colmare la solitudine dell'altro. Quanto volontariato c'è negli ospedali, perché nasce dalla generosità di chi ha sofferto, nasce dalla bellezza dell'impatto che il dolore ha creato in quell'anima e l'ha aiutata a dire mai più la solitudine. Cioè, non posso pensare che qualcuno si senta solo. Ecco, voglio dirti quindi che è come se ci fosse un lungo itinerario, no? Che comincia con il dolore, comincia con una sofferenza acuta, graffiante, profonda, ma poi c'è anche questa sorta di conversione del cuore che genera nuova bontà, nuova bellezza, ti potrei dire nuova verità nel giudicare e valutare le cose, e quindi fa anche di noi persone nuove, persone migliori di come ci ha lasciato, di come ci ha trovato. Mi volevo soffermare un attimo sul luogo comune a cui accennava lei nei confronti dell'educazione dei figli, no? Il discorso di guardare l'altro, di avvertire i nostri figli che non si facciano mettere i piedi in testa. E mentre lei parlava, proprio pensavo me seduta al posto di lavoro, che in fondo poi mi sforzo, grazie insomma anche alla formazione che ricevo da tanti anni, al fatto che ho avuto lei anche insegnante su un corso dell'educazione dei figli proprio alla Collinare, e mi chiedevo proprio questo, in fondo io insomma non evito, ci sono pochi momenti in cui mi scoraggio, perché appunto, però è difficile, cioè l'altro nel momento in cui vede che in ogni caso sei una che non, cerca appunto di trovare un punto d'incontro, se ne approfitta sempre, e quindi mi chiedo come si fa appunto. È facilissimo, e noi ci diciamo tutti i giorni. Questa è una bella domanda. L'altro giorno a casa mia abbiamo organizzato un incontro. Sapete che hanno dato il premio Nobel per la pace alle donne africane quest'anno? E io ho dato il premio Nobel per la pace perché sono state costruttrici di pace. Certamente nessuna di loro è stata, come dire, debole, fragile, ma sono state toste, no? Se leggi anche lì, le loro storie sono state toste. E allora non bisogna confondere, non è così semplice, non è così scontata. La famosa storia porgi l'altra guancia va bene, però nell'intervallo tra una guancia e l'altra c'è un itinerario un po' più lungo che quello segnato dal mio naso, no? Cioè un processo, un percorso. E allora vediamo un attimo però di andare a fondo in questo, perché è certo che dobbiamo essere costruttrici di pace, è certo che non dobbiamo prenderci vendette, la vendetta contraddice il cuore della... Non è mai bella la vendetta. La vendetta ha un che di oscuro, no? di violento, di aggressivo, di distruttivo. Non è mai l'espressione della giustizia la vendetta, no? Ci sembra sempre che è un torto che non viene riparato da un altro torto commesso con la falsa idea di ristabilire la giustizia. D'altra parte bisogna anche lì avere ben chiara la differenza che c'è tra la fortezza del mite, beati i miti perché possiederanno la terra, quindi la forza e la fortezza del mite, e la debolezza e l'acquiescenza, chiamiamola così, del masochista. Noi diciamo pure che non ci sarebbe un sadico se non ci fosse un masochista. Cioè, la prima volta che lui ci prova nel suo sadismo, se qualcuno lo ridimensiona, vedrai che anche il sadico in qualche modo perde l'abitudine. Come quando tu cerchi di contenere in qualche modo, no, la violenza, perché non ci sia un'escalation della violenza. Allora, cosa bisogna fare con i figli? Beh, si può, tra virgolette, incominciare da... dipende dal modello educativo che tu voglia stabilire, ma facciamo conto che tu gli voglia dare un'educazione che abbia anche al fondamento un'educazione cristiana, e quindi tu vuoi essere sicura delle premesse del tuo modello educativo. Non mi vorrei sbagliare, eh? per essere certa che io sto dando una bella educazione, per utilizzare la metafora di oggi della bellezza, per essere certa che sto dando una bella educazione, voglio partire da base. E allora la prima base di cura che tu gli insegni a tuo figlio è ad amare il prossimo. Però glielo devi insegnare bene, perché quella frase ha due premesse. Primo, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutto te stesso. Secondo, amerai il prossimo tuo come te stesso. Allora anche questi sono come gli ingredienti: qui c'è l'amore di Dio, qui c'è l'amore di te stesso e qui c'è l'amore del prossimo. E come li lavoro? Perché questa è la difficoltà dell'educazione. Come li lavoro questi principi fino a trasformarli in un progetto concreto ed efficace? Allora, la prima cosa è davvero che tu insegni a tuo figlio l'amore di Dio, che significa tante cose, che significa il coraggio della verità, che significa il coraggio dei principi, che significa il coraggio di non essere complice dell'errore, della menzogna, del male. Lì cominciamo. Quindi tu sai bene che cosa è giusto, sai bene che cosa è vero, sai bene che cosa è buono. Cito il Santo Padre, è stato un mese fa circa a Berlino, è stato al Bundestag. Avete letto, avete presente quel discorso? Il discorso del Santo Padre al Parlamento tedesco. Discorso difficilissimo, di una bellezza straordinaria che solo un tedesco poteva fare ai tedeschi. No, ragazzi, perché è un discorso in cui gli dice, gli parla del nazismo e gli dice: quelle persone là credevano di obbedire, ma hanno sbagliato gravemente, dovevano disobbedire. Anche se chi dava l'ordine era una persona confermata nel ruolo, ma dovevano disobbedire perché il contenuto di quell'ordine contraddiceva alla legge naturale. Allora, questa sono, tu prima di tutto a tuo figlio gli devi insegnare che cosa è giusto, gli devi insegnare che cosa è buono, e glielo devi insegnare in un modo quando ha 3 anni, in un modo quando ha 8 anni, in un modo quando ha 14 anni, in un modo quando ha 20 anni. Cambia il modo, ma i principi sono i famosi sempre principi non negoziabili, e non devi stancarti di illustrargliene la bellezza. Ragazzi, stiamo parlando di qualcosa che è stata scritta nella pietra 3000 anni fa mediamente, e che conserva oggi ancora un potere di bellezza straordinario. Non uccidere, non rubare. Beh, dice sempre, si comincia sempre con rispetto a mamma e papà, onore al padre e alla madre. Ma la bellezza di onore al padre e alla madre: non uccidere, non commettere atti impuri, non rubare, non dire false testimonianze, non desiderare la donna d'altri, non desiderare la roba d'altri. Ma 3000 anni fa, e sono ancora il nostro pane quotidiano di oggi, sono ancora i veri principi non negoziabili. Perché non abbiate paura, quando c'è i principi non negoziabili sono quelli: la vita, la famiglia, ma sono là, l'educazione. Allora quello gli devi prima di tutto trasmettere a tuo figlio, perché gli devi trasmettere che la prima cosa è la sua coscienza, e deve agire, la bellezza dell'agire in coscienza. A quando è piccolo gli dirai alcune cose, quando è grande gli citerai il Cardinal Newman, quando avrà 8 anni e si prepara alla prima comunione, alla prima confessione. È la straordinaria scuola di educazione alla coscienza dei bambini a 8 anni. Ragazzi, non stiamo lì soltanto a fare i cartelloni. Cioè, la prima grande sfida in cui una madre, in accordo con Santa Madre Chiesa, con la speranza di incrociare delle catechiste brave, tanto più se poi qualcuno di voi fanno i catechisti, hanno in mano la prima prima vera grande occasione di formazione della coscienza, la bellezza di una coscienza pura, limpida, chiara, serena. Questa è la prima cosa che devi insegnare a tuo figlio. Quindi gli insegnerai anche che può perdonare l'amico che gli fa una prepotenza, che conviene che lo perdoni, ma non può negare quella che è la verità, quella che è giusta. Quindi, per dire, se mi hai preso quello che vuoi, l'astuccio, te lo posso anche regalare, ma l'astuccio è il mio, non è il tuo. Cioè ristabilisco un principio, che è un principio di proprietà. Dopodiché, se voglio, te lo regalo, se no, e lì ci sono una serie di condotte. Ti posso dare un pugno sul muso, non c'è problema. Posso andare dalla maestra e chiedere giustizia. Ma non esiste, cioè il problema serio oggi è questo, c'è una crisi di giustizia istituzionale forte. Cioè io vado controcorrente oggi educando alla giustizia, perché mi trovo di fronte, scusate se intervengo in questa maniera, ma mi tocca pure personalmente, di fronte a un sistema dove la giustizia proprio non esiste. Nelle cose elementari e nelle cose più gravi che siamo portati a vivere e a cui dovere sottostare personalmente. Guarda, tu hai ragione, come si dice in gergo, hai ragioni ma non hai ragione. Cioè hai ragione perché quello che dici sono fatti, quelli che tu racconti sono fatti. Sono fatti, sono circostanze, probabilmente tu li racconti a scala 40 e io te li potrei raccontare a scala 90 per darti ragione. Ma lo stesso non hai ragione se smetti di denunciarlo, se smetti di assumerti la responsabilità argomentativa della denuncia. Lo devi fare, poi piglierai tegate nei denti, come si dice in gergo. È chiaro, ma tu paghi il prezzo, paghi pegno. Ma se tu non vuoi pagare pegno, tu sei complice. Questo è il punto. Cioè, il punto vero è che se io dico una cosa che non è il pensiero corrente, omologato, conformista, parlo di me, il giorno dopo, da Repubblica in giù, sono tutti contro. Ma io non posso tacere lo stesso. Vi faccio un esempio banale. Sta per uscire una pillola, i giornali ne hanno parlato poco, l'L1, quello del quinto giorno, sì, la pillola del quinto giorno, sì. Ma dico sta per uscire perché non è ancora sul mercato, ma arriva perché l'AIFA, la Gazzetta Ufficiale è uscita pochi giorni fa. Allora il tema questo è questo, non è tanto che questa pillola, oltre ad essere anticoncezionale come quasi tutte le pillole, è anche abortiva. In Italia c'è una legge 194 che io dichiaro, comincio la mia intervista dicendo: lei conosce perfettamente la mia posizione, su questo punto sa che sono contraria all'aborto. Però le voglio dire una cosa, in Italia c'è una legge sull'aborto. Ciò che io sono assolutamente contraria di questa pillola, e sto facendo la mia interpretazione al ministro, mi sto pigliando le mie tegate nei denti, è il fatto che nel fogliettino, cosiddetto sbugiardino che accompagna le medicine, nemmeno piccolo che lo psicopata del fogliettino lo va a leggere, non c'è scritto quello che la comunità scientifica ha detto, sia pure in via, come dire, probabilistica, che questa pillola ha probabilmente un effetto abortivo, e lei ce lo deve scrivere. Allora, a me la mia condizione è una pizza ricominciare questa battaglia, perché poi è sempre la battaglia dei cattolici di retroguardia, di quelli che dicono sempre solo i no. Cioè, mo abbiamo cominciato un governo nuovo, ma che ricominciamo di nuovo a fare? Eh sì, ricominciamo di nuovo. Però è una battaglia per la verità. Allora, io non ti posso imporre di non abortire. Ti debbo imporre di dichiarare che quella pillola è anche abortiva. Faccio. Mi scuso, il test di gravidanza di fatto per pigliare quella pillola, quindi sì, sì. È abortiva. Sì. Ma infatti c'è tutta una mistificazione intorno a quella. Ma in televisione hanno detto pillola abortiva, cioè parente test di gravidanza. Sì, sì. Deve effettuare questo test e poi. Però nel foglio non lo vogliono scrivere perché chiaramente se lo scrivono. No, ma passano due cose. Primo, che potrebbe esserci che qualcuno che in fondo si fa ancora scrupolo di non abortire e non la volesse prendere. Secondo, che non la puoi mettere in una determinata fascia e quindi cambia radicalmente non tanto la valutazione etica quanto l'impatto economico. Costa. Allora, quello che ti voglio dire, però ognuno di noi la sua battaglia la deve fare. Probabilmente tu non devi fare la battaglia della Leuan, probabilmente quella la devo fare io. Ma è la stessa cosa dell'altro giorno. Se non avessimo fatto, lasciatemelo dire con tutto affetto e tutto rispetto per questa platea, il casino che abbiamo fatto tutti quando è uscito la reclame di Benetton con il Papa e il musulmano, eccetera, eccetera, sul ponte, ma ragazzi, noi qui stiamo parlando, voi dovete immaginare sul piano simbolico che cos'è il ponte di Castel Sant'Angelo. Il ponte di Castel Sant'Angelo è il ponte di ingresso dalla città di Roma alla città del Vaticano. Cioè, noi stiamo parlando di un luogo di altissima provocazione. Stiamo parlando di questo punto, il punto più prossimo possibile al Vaticano, cioè Stato italiano, ma proprio sul confine con lo Stato Vaticano. Se non avessimo reagito tutti subito. Certamente loro dal punto di vista pubblicitario hanno già fatto bingo comunque, questa è l'ipocrisia, certo, però diciamo tra virgolette, l'hai fatta togliere. Però questo ti voglio dire, che la bellezza della verità non ti sottrae alla responsabilità. Tu pensa alla bellezza della verità di queste famiglie, di questi ragazzi a Locri che protestano contro il pizzo, a rischio e pericolo loro, pensa a tutti quelli, insomma, voglio dire anche a Capodorlando, eccetera, eccetera. Ragazzi, la verità è perché altrimenti c'è la complicità dell'omertà. Cioè, ciò che è drammatico non è la follia o la cattiveria di uno, diciamo tra virgolette il pazzo, perché io lo considero un pazzo o per volete il criminale, ma è la complicità di tutti quelli intorno. Ma com'è possibile che nessuno ha il rigurgito, che dovrebbe essere naturale, il vomito coatto, dovrebbe proprio essere un revulsivo, quello per cui ti porta a vomitare una cosa che ti fa male. Ecco, noi dobbiamo recuperare questa capacità di reazione, che è un forte impegno civile, ma è la bellezza della verità, è il coraggio della verità, perché, come dice, la verità vi farà liberi, ma se voi rinunciate alla verità, ma state già rinunciando alla libertà. Allora, la bellezza però non la si ottiene a gratis. Se la famosa Liliana Cosi, per ballare come una libellula sulla punta delle dita, si deve esercitare 8 ore al giorno, 8 giorni la settimana per 365 giorni l'anno, io se voglio la bellezza di una testimonianza così dovrò esercitarmi 8 ore al giorno, 8 giorni la settimana, 365 giorni l'anno. Non posso pensare che lo faccio e non posso nemmeno immaginarmi che dopo tutti dicono: ma brava, ma che bello, ma come sei stata brava? Perché mi devo ricordare che il nostro Signore mi ha mandato in croce i buoni del suo tempo, i potenti del suo tempo, perché lui ha sfidato quel sistema e l'hanno mandato in croce. E il discepolo non è da più del suo maestro. Allora o io sono disposta ad assumermi la responsabilità con coraggio della testimonianza della verità e ne colgo la bellezza. Qui c'è un po' di gente grande, no? Perché se no i giovani non sanno nemmeno di chi si parla. Ormai c'è un sacco di gente che è nata dopo il 1990. Dici: scusa, ma cosa sei nata a fare che tutte le cose importanti erano successe prima? Voglio dire, tutti questi ricorderanno gli anni, mi riferisco agli anni compresi, mettiamo pure tra il 50 e l'80, gli anni in cui la cultura italiana, nonostante ci fosse politicamente la Democrazia Cristiana, quindi una forma di questa, però gli anni in cui la cultura era una cultura assolutamente marxista. Io sono andata a fare la mia specializzazione in Spagna nel civile, mi sono laureata nel 67, quindi sono partita subito, sono andata a fare specializzazione, perché in quegli anni là, che erano gli anni a cavallo del 68, la psichiatria in Italia era la psichiatria marxista, ma ve lo dico così, ma voi lo dovete prendere quei testi. Cioè era, oh, mo, dimmi tu se c'è la psichiatria marxista. Oggi la gente ti ride dietro, dice scemi, scemi, ma era la psichiatria marxista. Tutta era una cultura così. Ragazzi, se non ci fossimo ribellati, adesso la gente non sa nemmeno chi è un Marx, dice marxista, dice marxiano, pensa davvero che sia marxiano, non sanno nemmeno che cosa, non si rendono nemmeno, quelli vecchi riescono comunque a riconoscere i segni che ancora oggi serpeggiano sotto forme diverse. C'era un bellissimo articolo l'altro giorno, scusatemi se io cito sempre Avvenire, ma trovo che uno può leggere il giornale che vuole, ma se non legge Avvenire non è sicuro della bonifica delle proprie risorse intellettuali. Diceva che oggi la tragedia non sono i catto comunisti, perché ovviamente i comunisti non ci sono più, quindi il catto comunista chi è? Sono i cattolicisti, che peccato che sono i figli illegittimi dei cattolcomunisti. Allora, la bellezza di un pensiero cristiano elaborato e fatto proprio attraverso quella che è la dottrina sociale della Chiesa, ma conosciuta e non per piacere letta in pillole su Repubblica o dove sia, ma letta alla fonte. Quella è la bellezza del pensiero di cui noi ci dobbiamo occupare, perché la bellezza è quella che rende possibile la testimonianza, altrimenti tu non sarai capace di dare testimonianza e di caricarti l'onere della testimonianza. Per fare questo devi credere fermamente che la verità che tu contempli e che non hai fatto tu, perché la stai scoprendo, la stai in qualche modo rivelando, stai partecipando alla rivelazione della verità, nel senso proprio di svelarla, rivelarla, allora quella è la bellezza del coraggio delle proprie idee, che io però ho bagnato in uno sforzo reale e concreto di capire dov'è la verità, cioè ho fatto la fatica di generarla questa cosa. Il problema è farlo capire per esempio a un ragazzino adolescente, però questo, perché noi che abbiamo magari questa sorta di spirito di sacrificio o abbiamo compreso il messaggio e lo facciamo proprio già noi a fatica, però come darlo come educazione in positivo e quindi non in negativo, come qualcosa che sia degenerato di una società che sappiamo quella che è, ma non si può dare questo approccio ad un ragazzino che sta nascendo, una ragazzina che si sta approcciando alla vita e al mondo soltanto sotto un aspetto che già noi sappiamo essere degenerato e negativo. Quindi come si approccia in positivo? Soltanto in relazione alla verità, ma loro i risultati che vedono di questa verità è soltanto calcio in faccia, risatine, cioè, quindi è importante che noi sappiamo addurre loro delle motivazioni forti, importanti, anche pratiche, non solo teoriche. E lì la problematica maggiore. Allora, guarda, una cosa vera è che comunque tu hai parlato di un adolescente, quindi hai parlato di un'età in cui per definizione mi oppongo. Non importa, siamo stati tutti adolescenti, tutti abbiamo contestato il sistema, tutti ne abbiamo rivelate le contraddizioni e tutti abbiamo messo insieme due cose tipiche dell'adolescenza. Da un lato la tempesta ormonale e dall'altro la fame di strana mistura con gli adolescenti, no? Che è, come dire, è l'elemento del fascino delle loro contraddizioni, no? Che poi sono capaci di essere schiavi delle loro passioni che non riescono a controllare perché gli si risvegliano in mano e non sanno nemmeno come si mangia, cos'è questa energia che sento di me, questa voglia che sento di me. E poi invece di testa questa straordinaria voglia di ideali, questa straordinaria voglia di contestare l'ingiustizia, di contestare il privilegio, di contestare il conformismo. Ma sono un po', quindi tu devi avere da un lato il realismo, io chiamalo così, il realismo delle loro tempeste, no? E si fa forte di valore da contrapporre a, come potremmo dire, tutta quella ribellione violenta, potremmo dire in realtà all'interno della Chiesa, e nacquero proprio come una risposta di giovani che non volevano rassegnarsi a questo appiattimento travolgente, anticlericale, diciamo, che lavorava quasi nel dissolvimento di principi e valori. Uno era la comunità di Sant'Egidio, Andrea Riccardi, attuale ministro dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Quindi uno che nasce in quel momento con questa cosa, e l'altro con Don Giussani CL. È solo che ti dico, sono due realtà che storicamente nascono da gruppi. Andrea Riccardi, quando fonda la comunità di Sant'Egidio, sai quanti anni aveva? 18. Era un ragazzino che, per carità, noi crediamo profondamente che dietro queste cose c'è una mission, c'è come dire un progetto anche di Dio che suscita questo. Allora, l'idea è, figlio mio, tu puoi essere questo, spazzolato via dalla storia, perché comunque è una pura forza distruttiva che non ha generato nulla se non distruzione, e poi dall'altra parte puoi avere un progetto diverso. Noi abbiamo sempre preso in giro Andrea Riccardi, dicendo che non avrebbe mai fatto il ministro, perché lui come minimo, posto che il posto del Santo Padre era già occupato, e non avrebbe potuto, e lui come minimo aspirava al premio Nobel per la pace. Ma è vero che la comunità di San Cigilio ha portato avanti tanti progetti molto interessanti di sul piano internazionale. Voglio dire, c'è sempre un tempo, c'è sempre un modo, c'è sempre una leadership, c'è sempre una possibilità. Tu devi avere tuo figlio, tu hai molto meno potere di quello che vorresti, ma hai certamente più potere di quello che non credi di avere. E vale anche per quello che dicevi tu. C'è un'altra domanda, Marina, credo. Marina, sono di due ragazzi adesso più che ventenni. Io li ho sempre educati con la regola del novetto pure. Cioè, i ragazzi mi dicevano che avevano fatto a botte, avevano subito qualche sopruso, mi chiamavano in causa, andavamo a scuola e io portavo l'ovetto kinder all'aggressore per insegnargli, insomma, che si doveva fare pace e solamente dialogando con qualche gesto affettuoso si poteva andare avanti. Adesso sono diventati grandi e ultimamente è successa una cosa che mi ha messo in seria difficoltà. Io avevo consentito affinché uno dei due vendesse, sa che adesso si usa vendere queste cose. Anche tutti i dischi, i giochi, si vendono tutto. Un distributore antico di Coca-Cola, una cosa bella per chi lo apprezza. Io, per me era una cosa di cui sbarazzare. Ed è venuto un adulto, anche facoltoso, una persona adulta, insomma, di questa nostra città. Io ho guardato da lontano cosa succedeva. Il ragazzo ha fatto un prezzo e la persona ha chiesto uno sconto, e vedevo che mio figlio diceva di no, e finalmente questo signore dà questa cifra. E saluti e baci, il ragazzo ritorna arrabbiatissimo con questa cosa in mano, con questa cifra in mano. E allora che cos'hai? Mi ha chiesto uno sconto. E allora si deve fare uno sconto. Dipende da quanto eravamo partiti. La cosa invece grave era accaduta, non era lo sconto. Il signore ha chiesto uno sconto e si è fatto lo sconto. Anziché 350 ha lasciato 315 euro. E lui perché gliel'ha dato? No, il ragazzo se ne è accorto dopo, perché la sua incapacità di gestire il commercio e anche la sua timidezza lo ha portato a non controllare la cifra. Ma il problema che io pongo è questo: io ho dovuto faticare, e non tanto per, perdonalo, è un mentecatto, ho dovuto... non era quello il problema per mio figlio. Io poi ho dovuto faticare e insistere per giorni. Mio figlio si è sentito incapace di non reagire. Se fosse venuto da me gli avrei detto: scusa, ma tu questo signore come l'avevi contattato? Ricosato. Allora comincia, mandagli un'email e digli che ti ha imbrogliato. E digli che metterà su Facebook che lui ti ha imbrogliato. In 30 secondi tutti sapranno che lui è un imbroglione. Cioè, non è che, attenzione! Cioè, non si può! Non si può! Ragazzi, attenzione! Attenzione con i giovani, ma attenzione anche con noi. Quello era un imbroglio, lui non può diventare complice di una menzogna. Certamente non può andare a spararli, questo francamente esula un po' dai nostri principi, non è quello. Però oggi la vendetta tipica dei giovani, l'aveva contattato su Facebook, lui racconta questo episodio, descrive il soggetto, ne dà le caratteristiche, dopodiché vedrai che quello ci pensa un'altra volta. Ma voglio dire, la complicità dei silenzi non dobbiamo nemmeno generarla nei giovani. Nei giovani dobbiamo alimentare una sana possibilità di essere testimoni di verità. Testimoni di verità coraggiosa, perché è evidente che magari fosse l'unico che imbroglia, l'unico che imbroglia su 35 euro, sono d'accordo, è il principio che non funziona. Infatti, la ragazza era da solo. No, ma comunque lo può fare anche tre giorni dopo, cioè anche una settimana dopo la può fare una cosa di questo genere. Vedi pure, certo. Il microfono, ecco, altre due dita. No, scusa, c'era prima dietro la signora. Ma vabbè, dai, tanto per ordine, altrimenti che faccio qua? Ci sente più forte di me. Diciamo che l'adolescenza adesso si è spostata un attimino, dai 15-16 anni la viviamo già intorno ai 18-19. Scusa, la comincia a vivere prima e la vivi fino a 30, su questo sono d'accordo, diciamo che si è dilatata. Hai ragione. E mi ritrovo, pur avendo un rapporto eccezionale con mia figlia, a vivere anche una sorta di aggressività verbale nel caso in cui da parte mia c'è un dissenso, un qualcosa. Allora, a proposito di bellezza che individua, eccetera, sicuramente tanti elementi e requisiti di vita, come si può trasferire il messaggio di un genitore che vuole da un canto dare delle regole che diventano poi diciamo gli elementi di supporto nella vita di un uomo, di una donna, e nel contempo imprimere quell'autorevolezza che nella qualità di genitore devi comunque dare, diversa sicuramente dall'autorità che tu vuoi trasferire in quel contesto. Quindi, puoi fare un esempio però concreto, così io ti rispondo attraverso l'esempio a quello. Allora, andare per esempio ad una festa che sicuramente diventa simpatica in un momento anche della settimana dove tu sei spensierata, sei libera nel fine settimana. Se questo evento si dovesse ripetere infrasettimanale e sicuramente tu con le buone fai capire, sto facendo un esempio banalissimo, l'abbiamo vissuto anche tutti, fai capire che non sarebbe opportuno perché l'indomani si deve studiare, perché hai degli impegni di altro genere, eccetera, e di contro invece il figlio si rivolta dicendoti che non hai capito niente, che questo è il suo momento, eccetera, eccetera, cercando di farti nella sua vita quotidiana, eccetera, eccetera, però di contro si crea lo scontro, proprio si crea lo scontro. Allora, a quel punto, come reagisce un genitore? Allora, si prova a stare in silenzio e non puoi, perché devi trasferire sicuramente delle regole, certe, delle regole che ti creano individui. Come tu pensai, il tema delle regole non è la certezza della regola, ma è la certezza della pena. Ecco, anche su questo, la giustizia ne potrei parlare. Guarda, io penso una cosa, prima di tutto le regole conviene sempre che siano in un contesto, che siano in un contesto. Tu hai detto, cito per le cose che hai detto tu, guarda, il tema vero è che io non vorrei che tu andassi a questa festa martedì sera, giovedì sera, perché ci sei già andato martedì, sei già stato fuori con i tuoi amici e tu venerdì e sabato devi essere interrogato, facciamo un esempio, no? In storia e matematica, e quindi è importante che tu sia lucido e riposato. Se tu ci vai mezzo addormentato è difficile, statisticamente parlando, che tu ce la faccia. È un esempio di questo. Allora, in un sistema di questo genere ci sono varie regole che ci sono. C'è per esempio la regola fondamentale e principale, che è quella della responsabilità nell'affrontare, come dire, quello che per lui è il suo lavoro. Tu sai che adesso non ci riusciranno, però tu sai che adesso vogliono addirittura mettere a scuola il cartellino per gli studenti, perché se lo studio è il lavoro dello studente, lui deve stare a scuola, a scuola nella complessività dell'impegno, nel contratto, 8 ore, come ci sta qualunque metalmeccanico, qualunque. Non ci riusciranno, però questa è una battaglia interessante sulla chiave del principio, cioè di dire lo studio è il tuo lavoro. Allora, quello che a me interessa è l'investimento che tu fai sulla tua vita, che è fatto sicuramente di studio, ma non solo di studio, perché guai a dirgli oggi in un contesto che è raccomandatizio, privo di opportunità, cioè a noi ce lo potevano dire davvero, che studiando scommettevamo sul nostro futuro, è stato un tempo migliore con tutti i suoi limiti, quello che noi abbiamo avuto. Con loro è un po' più difficile riuscire ad argomentare questo. Però tu gli puoi dire, guarda, io come madre quello che desidero sono 3 cose, veramente 3. Primo, che tu attraverso il tuo studio, che significa attraverso il rigore, attraverso la competenza, attraverso la serietà, costruisca il futuro. Secondo, che tu abbia una rete di amici bravi, perché nella vita le relazioni sono una ricchezza insostituibile. Se tu non hai degli amici, se non sei capace di stare con loro, di mediare con loro, se non ti conquisti la simpatia, è difficile anche che i tuoi talenti intellettuali ti valgano. E il terzo obiettivo è che tu non comprometta la tua salute, perché poi alla fine c'è bisogno, come al solito, di riposare, eccetera, eccetera. Allora, come te le vuoi giocare queste 3 cose? Te le devi giocare. Ma può anche essere che tu esci il martedì e il mercoledì. Che problema c'è? Dormi sabato e domenica. Non mi venire a chiedere di uscire il sabato. Lo dico scherzando. Ma è in un bilanciamento complessivo che tu gli dici... È in un bilanciamento complessivo che tu gli dici le cose. E gliele dici in un contesto, che non è solo la regola estrapolata dall'altro sistema. Non so se è chiaro. Quindi tu devi dire, a me mi stanno a cuore il tuo studio, che significa il tuo successo, la tua autonomia, la tua capacità di poter fare da te. Mi sta a cuore la rete dei tuoi amici, perché oggi senza amici, ragazzo mio, tu lo vedi meglio di me, tutto è costruito all'interno, intorno a un complesso di dinamiche, e che tu stia bene in salute. Se tu non dormi, oggi fai fuori me. E vabbè, pazienza, di mamma ce n'è una sola. Però domani fai fuori la tua ragazza, perché domani sarai isterico con lei. Domani litigherai con il tuo amico, perché quando si è isterici, stanchi, alla fine si è molto meno tolleranti con tutti. Quindi devi mantenere un rispetto del tuo corpo che ti permetta di reggere, attraverso il controllo della stanchezza, anche le tensioni e i contrasti che ci sono in gruppo. Meno sei riposato e più sei intollerante, più sei aggressivo, più sei violento. È vero, non stiamo dicendo cose basse. Questo è un po' il tema. Allora tu con lui, e poi però, dipende quanti anni c'ha, gli devi dire, ragazzo mio, provaci. Sperimenterai, io ti chiedo solo quell'amore della verità che ti porta a dire, c'avevi ragione mamma, sono stanco, nervoso, nevrastenico, mi è andata male l'interrogazione perché non sono stato in grado di gestire questa cosa, e gli amici tutto sommato non valevano più di tanto la pena, perché l'unica cosa che stavano facendo era cercarlo. Ma l'educazione non è mai una battaglia di ora per ora, è sempre una battaglia di ora per allora, altrimenti non è educazione, è addestramento. La pazienza dell'educazione è la famosa pazienza dell'abbraccio benedicente di Dio Padre, che aspetta il figlio prodigo stando in cima alla scala a vedere se per caso ha capito che si era sbagliato e torna indietro. Cioè nell'educazione noi dobbiamo sapere che l'educazione alla libertà significa assumere in parte certi rischi e fargli assumere in parte certi rischi, non però rinunciare a parlare. Non rinunciare a dialogare, questo non lo può. Ah, io volevo dire una domanda che mi chiedo, perché nella nostra cultura, nella nostra vita moderna, odierna, si diffonde poco la bellezza della vita, e invece si vuole diffondere moltissimo la cultura della morte. Allora, allo stesso tempo poi si vuole, c'è un paradosso, si vuole raggiungere la longevità in perfettissima forma fisica, quindi sacrifici di dieta, esteriore, e poi di fronte invece non si parla di aiutare un bambino nel grembo della madre, aiutare la madre, o aiutare una persona ammalata, invece si parla molto di eutanasia e di aborto. Guarda. Ah sì, l'altra. Senti l'altra? C'era un'altra domanda? Non mi pare che eri tu, scusami, eh? Eri tu quella che volevi fare la domanda? Da quella zona, eri tu? Sì, sì. Volevo chiedere questo, lei è stata molto illuminante su questi progetti di bellezza e pensavo, in questo ultimo mese mi sono trovata a rileggere la Rerum Novarum, che per la verità conoscevo poco se non per delle pubblicazioni così, e mi sono trovata, no, con una chiarezza, dico, ma era già tutto scritto, era già scritto nel Vangelo, per la verità, no, questo concetto di uomo, di persona, lei lo sa, di senso di lavoro e anche di senso di stato e di appartenenza. Ora dico, il discorso un po' si è spostato anche sulle esperienze personali, perché siamo mamme, siamo mogli, siamo professioniste e indubbiamente ci interessa anche il futuro dei nostri figli. Però vorrei ritornare un po' indietro e pensare, ma la nostra società come la possiamo migliorare alla luce sì della Rerum Novarum, ma anche del Vangelo che noi viviamo ogni giorno, perché dico, credo che si è perso essenzialmente questo elemento che parte appunto dalla bellezza per tutto, per il creato, ma anche per il lavoro, anche per il senso di appartenenza. No, mi sembrava una cosa, ci sarebbe moltissimo. Beh, dato che sono tre minuti, dopo questa risposta, la Rerum Novarum pone quella che è stata chiamata la questione sociale. La Rerum Novarum è la grande questione dei rapporti nel mondo del lavoro e sostanzialmente è una critica formidabile a quello che era il liberalismo assoluto, che era il problema di 120 anni fa. La Rerum Novarum fa quest'anno 120 anni, quindi alla avidità che è oggi, alla luce delle crisi economiche che abbiamo vissuto, una sorta di riedizione di quella avidità, di quella cupidigia, di quella cosa. Quindi il sistema è che la lotta ai vizi capitali ha una dimensione personale per ognuno di noi, ma poi diventa anche una dimensione istituzionale. Non a caso Giovanni Paolo II parlava di strutture di peccato della nostra società. Cioè il tema è che se io non lotto con la mia avidità personale e magari tu non lotti con la tua avidità personale, c'è il rischio che la nostra avidità personale diventa una struttura di peccato che crea nella società l'avidità di alcune classi sociali, di alcuni gruppi economici a danni degli altri. Questa questione sociale che noi oggi abbiamo sperimentato, dico, la crisi da cui viviamo, la crisi economica, è frutto di quella stessa avidità, solo che allora lo scenario erano le fabbriche. Oggi lo scenario di quell'avidità sono le banche, tanto per o le società finanziarie. Detto questo, però, la nuova questione sociale oggi è la questione antropologica, quello che dicevi tu. Tant'è vero che sempre Benedetto XVI nella Caritas in Veritate lo dice con molta chiarezza. La nuova questione sociale oggi è la questione antropologica ed è la questione della vita. Anche lì. Il tema è molto semplice, e te lo dico con la brutalità chiara con cui si può dirlo in questo contesto e 30 secondi prima di andare a messa. Il tema vero oggi è la mentalità contraccettiva che si è diffusa in Italia come un'epidemia. Tu sai che l'Italia è il fanalino di coda dell'Europa per quello che riguarda la crescita demografica. Cioè non è tanto l'aborto che succede, quanto la mentalità che non è a favore della nascita. Cioè a stento oggi le famiglie hanno un figlio. È vero che ti potrebbero dire perché non ce lo possiamo permettere, ma ti garantisco che negli anni 50, quando siamo nati molti di noi, qualcuno è nato anche qualche anno prima, non c'erano maggiori sicurezze economiche, eh? C'era una diversa capacità di progettare lo sviluppo, una diversa capacità di... Allora, o noi, sì è vero che le condizioni erano un po' diverse, sono d'accordo con te, però ti voglio dire, comunque non c'erano quelle sicurezze che oggi noi immaginiamo di dover avere. Il tema vero è che rimettere la vita in primo punto significa il coraggio di accogliere la vita. Quando sei una coppia giovane, accogliendo i figli, quando sei una nonna, sostenendo. Molte volte i figli dicono che la persona con cui è più difficile condividere la nascita della nascita è proprio la mamma o la suocera. Cioè, voglio dire, è creare la cultura dell'accoglienza della vita anche, chiamiamola così, nella percezione della normalità. Perché se non c'è l'accoglienza della vita, nella percezione della normalità, è ben più difficile l'accoglienza della vita nella condizione che so io, della complessità, della malattia e della disabilità. Detto questo, io credo che tutti noi possiamo fare molto di più per essere testimoni concreti di amore alla vita, perché lo testimoniamo con i genitori, con gli anziani, con la persona che abita nel nostro palazzo, con la persona che sta sopra, con la maestra delle elementari, cioè, per dire, con un panorama di situazioni in cui l'amore alla vita però guardate che noi, in questo momento è veramente l'ultima cosa, noi in Parlamento c'è un gruppo grosso di parlamentari di ispirazione cattolica che fa tutte queste battaglie. Poi ce n'è un altro gruppo che prima conto. Però un gruppo grosso che fa queste battaglie, c'è, però non basta che la fa in Parlamento se non c'è chi fa la stessa battaglia nella vita privata. Bene, adesso dobbiamo